e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, entriamo in onda, entriamo in diretta con un altro gruppo di amici che sono passati a trovarci ai nostri microfoni, nei nostri studi, per raccontare una serata, un evento, una festa, non lo so, andiamo a capirlo, chiedendo intanto dove venite. Vai. Buonasera a tutti, noi veniamo da Madonna di Campiglio, siamo un gruppo di 8 amici, compreso il nostro datore di lavoro Luca, che ci ha offerto questa stupenda e bellissima serata in compagnia e di cui non... non siamo mai lamentarci, dai! Esatto, esatto! Questi momenti sono fantastici, appunto, vivendoli in compagnia e sono... per noi non ricordabili! E come mai questo gesto di generosità al vostro capo? Guarda, perché siccome che io continuo a ricevere atti di beneficenza, io l'ultima volta ho messo una mano sul cuore e l'ho detto a loro, perché sono i migliori operai che possono esistere in Trentino. Bello, grazie, bel gesto. Grazie. Quindi confermi ai microfoni di Ristorato Convento, il che significa che è una prova tangibile che rimarrà nell'etere, che si meritano questo premio. Loro si meriterebbero un premio che secondo me andrebbe più io direi meritato come cavaliere del lavoro. Addirittura, che bello. Esatto, sì. Perché guarda, sono in 7 più me 8, ma senza di loro la mia ditta sarebbe zero. Fantastico. Quindi, fantastico. Grazie a loro e grazie. Bravo! Bello, bello, bel momento. A proposito, diciamo anche a questo punto di cosa si tratta, di cosa vi occupate, qual è la ditta e dove? Allora, noi ci occupiamo di, diciamo, tra virgolette, un po' di tutto, perché è da Tione di Trento, e di Sbosco, e poi... Parti di autisti. Non ridere Nicola, è una ditta di costruzioni edili. Ok. E da lì un po' tutto sul campo edile. Ah, ok, quindi occupate di edilizia, bello, bello. E siete solo voi 8, quindi? Sì. Beh, quindi anche abbastanza intima come... Sì, è intima, però è feroce la ditta. Sì, nel senso, comunque... No, intima nel senso che si ha a che fare fortunatamente con poche pochi persone. Pochi ma buoni, diciamo. Esatto, se sono fidate funziona meglio, ma è chiaro che pochi bisogna pedalare e lavorare. Esatto. Va bene, allora, grazie mille ragazzi per il vostro saluto e complimenti, grazie a voi, complimenti al direttore che vi ha fatto questo grazie, bel regalo. Grazie Luca! Bravo Luca! Bello, bello, allora li ringraziamo e vi auguriamo una buona serata e soprattutto a questo punto, se ve lo meriterete, di rivedervi l'anno prossimo. No, anche prima, 2-3 volte all'anno. Ah, va bene, va bene, allora così. Oh, sono bravi, bene, bene, grazie ancora, ciao. Grazie a te. Grazie, ciao.